shile kana nali umuntu mubi na mufinti fingi ifiwi kwena nali pitamo lelo fino ndesosa yesu ine nankakula we wanjishime we wanjishime kinfe nali akale uchi ulesela we na shile kana nali umuntu mubi na mufinti if you nali akale uchili ulesela kwena shile kana nali umuntu mubi na mufinti fingi if you kwena nali pitamo lelo fino ndesosa yesu ine nankakula we wanjishive if you nali akale uchili ulesela kwena shile kana nali umuntu mubi na mufinti if you nali akale uchili ulesela kwena shile kana nali umuntu mubi na mufinti fingi if you kwena nali pitamo lelo fino ndesosa yesu ine nankakula we wanjishive if you nali akale uchili ulesela kwena shile kana nali umuntu mubi na mufinti fingi ukuitindisha inengande pita babu binali mwakale elo chili kulipiwe bantu kristu nomba ine kwena nankakulako te ine ndino mumi ni kristu ebumi we wabelesha ukuitindisha inengande pita babu binali mwakale elo chili kulipiwe bantu kristu nomba Sha ukuitinisha inengande babu binali mwakale elo chili kuliwe bantu kristu nomba ine kwena nankakulako te ine ndino bumi ni kristu ebumi we wabelesha ukuitinisha inengande babu binali mwakale elo chili kuliwe bantu kristu nomba Yeah.